America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Mercati agitatissimi ieri con alti e bassi straordinari non soltanto in Europa ma anche in America per via della crisi italiana in divenire. Gli spread in Italia, come ormai sapranno tutti, sono aumentati, ma la cosa che mi ha colpito di più, devo dire, così avendo seguito ovviamente sui media americani le notizie, è quanta attenzione ci sia stata per quello che sta capitando da noi. Addirittura alcuni degli eventi che noi ovviamente essendo italiani seguivamo minuto per minuto, venivano seguiti quasi minuto per minuto anche qua. Quando per esempio c'è stata la notizia diffusa da alcuni giornali italiani che Berlusconi avrebbe dato le dimissioni, subito la notizia è stata ripresa immediatamente dalle agenzie, dai blog, dai siti internet. Su Twitter c'è stata un'esplosione viral, come si dice, virale, di questa notizia. Subito dopo c'è stata ovviamente la notizia della smentita di Berlusconi e di nuovo i siti americani, i giornali, il New York Times aveva la notizia in prima pagina. Ecco, succede molto raramente di vedere che il New York Times si occupi dell'Italia in prima pagina, se non sia magari per un qualche cosa di grande cultura o legato alla moda. Ecco, una prima pagina dedicata a una vicenda politica la si vede raramente. Qual è la spiegazione? Beh, la spiegazione è semplice, perché da quello che sta capitando da noi dipende un po' tutto quello che a cascata succederà sui mercati internazionali, nel senso che lo spread che abbiamo in Italia sui tassi di interesse così elevato è uno spread che ha ripercussioni in divenire su quel che capiterà sui mercati internazionali. Perché? Perché se arriviamo a quota 500 scattano i margin calls e parte un meccanismo a spirale tipo quello che è successo in Grecia. E dunque c'è una ragione per questo interesse, e la ragione è economica. Ecco, io ho con me ai microfoni di America 24 Alberto Bisin, professore a NYU di economia, un vecchio amico, ci siamo sentiti altre volte in questa trasmissione, perché mi sembra molto importante cercare di capire con lui quali siano le dinamiche che legano questa nostra crisi politica a una crisi economica non soltanto interna ma anche internazionale. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno Mario. Condividi che questa attenzione per questa nostra crisi abbia soprattutto una spiegazione economica? Assolutamente, è chiaro che le dimensioni del debito italiano sono tali per cui qualunque cosa succeda a noi, attraverso l'esposizione delle banche di tutta Europa, passa rapidamente anche agli Stati Uniti. Mi ha molto colpito il livello di precisione, di dettaglio con cui questi media americani hanno seguito quello che stava capitando da noi. E dunque credo che sia importante che anche noi entriamo magari in qualche dettaglio. Se lo spread sui bond italiani dovesse arrivare a quota 500, scatteranno i margin calls. Ecco, vogliamo spiegare che cosa significa questo passaggio ai nostri ascoltatori? Essenzialmente, quando ci sono rapporti di debito, ci sono varie forme di collateral, cioè varie forme di garanzia che sono richieste. Quindi, al di là di certi livelli di spread, la probabilità di default aumenta e quindi chiunque ci presta denaro essenzialmente richiede una qualche forma di garanzia in più. Questa forma di garanzia dipende dai contratti, può essere in forma di denaro, in forma di altri titoli, più che altro, diciamo, non credo ci siano problemi a soddisfare queste margin calls. Credo che il vero problema sia il segnale, insomma, questi tipicamente sono i casi in cui poi, come dicevi giustamente tu, si parte a spirale e si fa fatica a uscirne. Ecco, se ho capito bene, dunque questo significa che nel momento in cui un detentore di titoli italiani che ha consegnato questi titoli in garanzia per ottenere un prestito o un'anticipazione in valuta deve rispondere a questi margin call, vuol dire che è obbligato a depositare dei quattrini in più. Cioè, faccio un esempio, supponiamo che il valore nominale di una certa obbligazione sia 100, nel momento in cui si supera questo livello il valore nominale non può più essere 100 ma dovrà essere 120, e quindi starà a questa persona o chiudere il prestito, estinguerlo, ritrovarsi con questi bond in mano, ma se no starà a questa persona depositare bond ulteriori per portare quello che era un valore nominale di 100 a 120 su un prestito che a lui resta pur sempre di 100. Quindi c'è comunque un costo in più. Ecco, e questo fa precipitare ulteriormente i prezzi delle obbligazioni italiane, perché se poi si sviluppa una reazione a catena, giusto? Questo è il pericolo, ovviamente. Potrebbe anche non succedere, ma spesso succede esattamente che alcune delle posizioni vengono chiuse, la gente essenzialmente chiude questi margini con altri titoli e vende sul mercato i titoli italiani. Secondo te, quale può essere l'impatto sullo spread da un messaggio che il governo cambierà e che sarà sostituito da un nuovo governo guidato magari da tecnici del calibro di Giuliano Amato, di Mario Monti? Dunque, è difficile naturalmente quantificare, però certamente l'impatto è molto grosso, cioè ormai sono settimane che lo spread sale essenzialmente sulla base di notizie, diciamo, non di base economica su quello che sta succedendo in Italia, ma semplicemente su notizie del governo. Ecco, e dovendo andare avanti e immaginare che un nuovo governo tecnico con larghe intese possa superare alcuni degli scogli, secondo te cosa dovrebbe fare? Per esempio rimettere in gioco le pensioni di anzianità? Cos'altro? Sì, per forza. Le direzioni, i problemi fondamentali dove si intacca sul serio sono due. Uno sono le pensioni di anzianità e l'altro è essenzialmente i salari, soprattutto del settore pubblico. Io credo che prima di toccare i salari, questo è stato fatto in Spagna e in altri luoghi, credo che alla fine succederà anche da noi, ma certamente prima di toccare i salari si toccheranno le pensioni. E che cos'altro dovrebbero fare? Io credo che una volta messo a mano le pensioni ci sono due direzioni, o un qualche accordo sindacale, soprattutto appunto, ripeto, per il settore pubblico, che o addirittura diminuisca i salari o comunque ne blocchi la crescita nel futuro, quindi o un accordo di questo tipo, oppure, io vorrei dire purtroppo, una patrimoniale. Che secondo te non sarebbe una cosa opportuna? Secondo me non sarebbe una cosa opportuna in questo momento, perché non avverrebbe all'interno di un piano, cioè un governo che a lungo periodo abbassa, diciamo, incide seriamente sulla spesa di lungo periodo, oltre che a quella delle pensioni in generale, all'interno di un contesto di questo tipo, in cui abbiamo un governo che ha l'appoggio popolare, l'appoggio del Parlamento, che mette mano oggettivamente alla spesa in modo da rilanciare la crescita, all'interno di un contesto così una patrimoniale non ha nessun problema, anzi probabilmente è una cosa ragionevole. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo aver pubblicato il loro album di debutto, averlo suonato in un lungo tour degli Stati Uniti, ora il gruppo indie di Brooklyn, We Are Augustines, si è inventato un'altra trovata promozionale sul sito internet della banda. Oggi si può scaricare uno dei brani gratuitamente, e dunque degli Augustines, Headlong Into the Abyss. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.